Ciao Gianfra, scusa, non pensavo che ci fossi anche tu in radio. Sono entrato così di botto perché volevo segnare pace il volume basso e niente. Ho visto lo smitter muoversi e sono entrato così. Bene, stai andando da Walter, Marco? Ciao anche Tino, buonasera. Marco, ti volevo chiedere, tu li conosci questi giocattolini tipo SRP, eccetera, RSP si chiama così, li conosci? Romeo Sierra Papa, sono quei piccoli ricevitori SDR. Senza i 6 metri è uguale a quello che ci aveva Elio. Sì, dovrebbe arrivare o domani o lunedì. Ho trovato un'occasione, l'ho preso, però non mi ricordo se era quello con i 6 metri o quello senza i 6 metri. Vabbè, non c'è problema, le ponte faccia le HF, così lo proviamo, poi vediamo un po'. Bene, sei arrivato Marco, ti saluto anche io, sono qua, rimango in Corrix, sto compilando un questionario che mi hanno chiesto per la popolazione, le classiche domande, con chi vivi, dove vivi e come vivi, per carità, e quindi sono attento a queste cose qua, compilo così almeno ti do tutto e sto 5 minuti anche io alla radio. Ti saluto Marco, un abbraccio, dai, riprendi Gianfra. Sì, ok, Marco, sì, alludevo a quelli di, diciamo così, di fascia media, dai, questo viene intorno alle 200-220, c'è anche l'ingresso per un'ulteriore stabilizzazione, anche se ho visto che già di per sé è abbastanza stabilizzato, poi però l'uso è abbastanza, c'è 3.000 regolazioni ed è quello forse che blocca rispetto al ricevitore professionale che schiaccia un tasto e fa tutto lui. Va bene Marco, ci sentiamo dopo allora, dai, rientra pure a casa, buona serata per adesso. Claudio forse si è allontanato, dai. Ma ci sentiamo dopo Marco. Comunque ce l'ho il ricevitore, era solo una curiosità questa che ho preso e sto testando per vedere se hanno detto verità o bugia. Tutto lì. Riprendi Tino. O forse anche Tino si era allontanato, vabbè. Anch'io sto in ascolto che vado a mangiare qualcosa. È uno di quelli molto grossi, c'ha tutte le uscite, i ti, atatà, to, tutto quanto, va da 1 a oltre 3 giga se non ricordo male, e ci va molto bene, però mi piacerebbe un po' usarlo con parsimonia dato il costo. Ok Marco, a dopo. Anch'io mi allontano. Scusate, no, Gianfra. Oh, chi si vede? Sì, ciao Marco, di sfuggita, vabbè, c'è una cosa un po' più delicata, non avevo modo di fare radio. Ti sto solo chiamando che mi è arrivato il computer, l'ho testato, una bomba velocissima. siamo su altri livelli, mi auguro. Oh, è piccolino, più piccolo di quanto immaginassi, pesantuccio sì, però è tipo un decoder. L'unica cosa che ho notato, ho dovuto mettere la wifi FM, l'antennino. Oh, vabbè, quella è una cretinata. Il wifi sono oramai li trovo al supermercato, guarda, per 4 soldi, no? Non è quello il problema di una pennina, l'importante è che sia nuovo, nuova la pennina 802.1x di ultima generazione, e vedi che fa come un missile. No, già va bene, perfetta. Ho dovuto mettere, tanto siccome non ha come si chiama, VGA, l'uscita VGA, ho dovuto mettere la DV a VGA all'adattatore, meno male l'ho trovato dai cinesi, perfettamente funzionante. Sì, infatti, meno male che ci sono loro, se no saremmo tutti rovinati. Ti volevo dire, vabbè, poi adesso sto andando a mangiare qualcosa e poi torno, se vuoi possiamo installare e trasferire già un po' di programmi. Sì, certamente non c'è problema, sto aspettando una telefonata, devo spostare la macchina perché ho tenuto un parcheggio occupato, mi ha detto verso le 8, 8 e mezza, adesso vediamo un pochettino, comunque già ci aggiorniamo dopo eventualmente. Cosa ti volevo dire? L'unica cosa, non capisco come mai non vedo uscite audio classiche, mini jack, ci sono due ingressi dietro che non so cosa sia, servono, hanno un simbolo strano, questo non te lo so dire, il mio c'ha le uscite e quindi proprio non le uscite audio da qualche parte ce le deve avere, ecco. Per jack, mini jack, ne può avere anche una sola che le racchiude tutte e due. Poi, detto così, senza vedere l'apparecchio. Perché c'ha due cose, io mi aspettavo che ci fosse, sono tra l'altro tutti dello stesso colore, aspetta, guardo pure. No, scusa, non sono dello stesso, sono una verde e una celeste, c'hanno dei simboli che non conosco, sinceramente, a parte che non li conosco, i computer non sono preparato, c'hanno due simboli, sono due attacchi tipo mini jack, ma è femmina dietro, però uno è giallo e uno azzurro, non so cosa servono. Di norma l'azzurro sono gli altoparlanti, il giallo può essere una scheda audio, ma poi se vi dici il modello già lo recupero come funziona, ecco, non è quello il problema. Di USB mi auguro che ne abbia sufficienza, anche USB 3 possibilmente. Guarda, di USB mi pare ce ne sono dietro, ce ne sono 4, no, 5, 6 ce ne sono dietro e poi un paio davanti che le ho impegnate. E poi c'è una connessione che non conosco, sinceramente, particolare, sembra una di quelle telefoniche, le modem, però è più grossa. Ma guarda, è una RJ45 per il cavo di rete, che io utilizzo tra l'altro perché rispetto al wifi è una scheggia, è più affidabile e tutto rispetto al wifi. Comunque, per te va bene anche il wifi, tanto lo devi usare in stazione. E niente, è tutto così. Io mi stavo allontanando per mangiare qualcosa. Eventualmente ci sentiamo dopo, non so, dimmi tu. Sì, si prova a fare chiamata, tanto io sto aspettando questa telefonata, ci prego due minuti per spostare la macchina, che domani mattina mi sarebbe occupato un cancello, siccome dobbiamo fare dei lavori, deve venire il camion, la notte è un problema qua, ho lasciato la macchina mia, lui poi viene dopo e deve mettere la sua, così mi tiene occupato quel cancello, visto che non c'è il passo carrabile. Ah, ho capito. Va bene, dai, ci sentiamo dopo e vediamo un po'. L'importante è che funzioni bene, tieni acceso, testalo bene, insomma usa le parole povere e così vediamo come si comporta. Ma penso che di norma tutti questi che danno garanzia fanno le cose per benino, dai. Sì, sì, no, non posso dire niente, ha funzionato la prima, mi sono azzuffato, ho detto ma perché cacchio non mi dà l'emissione del codice, della wifi, della linea wifi, un'ora provando, dice codice non riconosciuto alla fine, non sai cos'è, non avevo collegato la tastiera l'ha scosso, non funzionava la tastiera. Ma c'avevi numerica e non alfabetica, insomma, queste tre cose, dai. No, non l'avevo attaccata la tastiera al computer, era attaccata all'altro PC. Lo so, anche quello mi è capitato, sono in molti che fanno quello lì. Qualcuno addirittura si dimentica di collegare anche la presa elettrica. Prima il modem, vabbè, poi l'ho collegato e ho fatto, cacchio, ma è possibile che non funzioni, cacchio, che non mi dice la cosa, perché avevo il mouse funzionato, lo davo per scontato, allora va a scrivere, dopo poi che mi sono collegato alla tastiera, allora funziona la tastiera, non rispondevano ai dati, e c'avevo il blocco tastiera, ho detto, cacchio, ma guarda un po', cacchio. Comunque, l'importante è che sia connesso in rete, così eventualmente scarico i programmi e inizia anche a essere operativo con qualche ascolto e vediamo un po'. Dai, ti lascio andare, dai. Ok, dai, io tengo acceso, sono qua in sala radio, poi vediamo un pochettino, dai. Ok, buona cena, se devi farla e buon tutto, a dopo. Ok, a dopo. Intanto faccio una chiamata generale qua sul canale 10, se c'è qualcuno avanti che vuole entrare. Accendi anche gli altri ogni tanto, ricordati di arrivare a Mattore, non solo CB. Già ti racconto se passi domani, tra cose più delicate. Adesso ho acceso 5 minuti perché ho preso questo computer per testarlo e basta. Poi c'è stato dei problemini, dai. Vabbè, spero niente di grave. No, io sono in stand by in volo. Grazie, ci sentiamo. Ciao. E io mi adesso acceso anche per rilassarmi un pochettino. Va bene, capra. E adesso se rimango acceso, tengo acceso anche io. Dove sei, in VUX e tu qua? Sì, 525 al 433 500 e sulla V7 Alfa. 145 525, così hai detto, ma in diretta? Beh, 145 525, ricordi che è sempre la diretta, non c'è né tono, né shift, né niente. Ok, allora accendo anche di lì. Vittore, bene o male, sulla caviglia non è a livello di quello grosso, di certo, ma il suo lavoretto lo fa, dai. E allora adesso dopo fa in VHF c'era Claudio e Marco, non mi sa quando c'erano i toni inseriti, e ho colto Marco, perfetto, meno male, sto cercando di capire, è stato semplice metterli i toni, non avevo visto che c'era la doppia funzione. Sì, è un pulsante solo, se non ricordo male. Niente, sono curioso di vedere se funziona quella cosa da te. Ma che cosa fa? La chiavetta? Allora aspetta che accendo tutto la radar. Tieni presente che sto aspettando questa famosa telefonata per spostare la macchina, mi può chiamare da un momento all'altro, perché lui come arriva dice ti chiamo, mi sposto la macchina, ci vogliono 5 minuti, dai, poi. Per cui come arriva la telefonata ti devo interrompere per qualche minuto. Dai, accendo il computer e proviamo. Ciao Fra. Sì, magari da qua ci spostiamo perché avendo così poco tempo a disposizione è meglio lavorare a ping pong. Via, cosa andiamo? 5, 5, 8, 5. No, solo uno va bene, dai. Uno, ok.